Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Destini incrociati oggi è al di là dell'Oceano Atlantico, negli Stati Uniti d'America. È la terra dove tutto è possibile. Il paese il cui inno nazionale, lo Star Spangled Banner, canta di battaglie, di valore, di bandiere a stelle e strisce che sventolano marcando il territorio degli uomini liberi, di coloro che possono permettersi di scegliere e decidere di fare ciò che vogliono delle proprie vite. Gli Stati Uniti sono il regno delle possibilità, delle infinite possibilità, per tutti o per chiunque abbia il coraggio di provarci. Il sogno americano, la speranza che attraverso un duro lavoro, sorretto da una determinazione incrollabile, sia possibile trasformare in realtà le proprie aspirazioni, siano esse le luccicanti meraviglie della fama o semplicemente un miglior tenore di vita. Questi valori vengono da lontano. Sono stati importati dai primi coloni europei, uomini pieni di tenacia e di idee, convinti assertori della libertà delle proprie scelte. La bandiera a stelle e strisce rappresenta la certezza che non serve il sangue blu per arrivare in alto. I nostri protagonisti non solo sono partiti dal basso, ma hanno iniziato le loro carriere in maniera del tutto inusuale. Per approdare alla politica, hanno scelto di passare dai fasti di Hollywood. In America tutto è possibile. Andiamo a conoscere il primo personaggio di oggi. Siamo nell'Illinois, e più precisamente a Tampico, piccolo villaggio di poche centinaia di anime piantato nel bel mezzo della pianura, lontano dalle luci delle città più importanti dello Stato, la rutilante Chicago e la più seriosa capitale, Springfield. Qui a Tampico, tra le quattro strade che si incrociano prima di perdersi di nuovo nei campi di grano tracciati col righello, al secondo piano di una casa dismessa, nasce il 6 febbraio del 1911 un futuro presidente degli Stati Uniti. Il suo nome è Ronald Reagan. Ronald Reagan. La strada che lo condurrà a Washington è ancora molto lunga e tortuosa. Da Tampico alla Casa Bianca, inaspettatamente, sarà d'obbligo passare per la California. È il 1937 e Ronald Reagan si trova a Los Angeles insieme alla squadra di football per cui lavora in veste di commentatore, i Chicago Cubs. Nonostante la sua laurea in economia, Ronald è approdato alla radio grazie alla sua voce possente e stentorea, perfetta per incontrare le esigenze degli ascoltatori. A Reagan, però, il mestiere di speaker sta stretto. Sa di poter puntare più in alto di così. Vuole tentare la strada del cinema e negli anni 30, per un aspirante attore, non c'è luogo più adatto di Los Angeles, la mecca degli studios. A 10 anni dall'introduzione del sonoro, avvenuta nel 1927 con il film Il cantante di jazz, l'industria del cinema è ormai una macchina gigantesca e collaudatissima. Proliferano i nuovi generi, come il musical, perfetto per valorizzare la portata della rivoluzione sonora, e si sperimentano le nuove tecniche narrative che sostituiscono di fatto l'utilizzo delle didascalie. La recitazione pomposa, teatrale, cui si affidavano gli attori dell'epoca del muto, è ormai ridicola. La loro gestualità epica non si sposa di certo con le nuove esigenze produttive. È ora che una nuova generazione di interpreti, dotati di voci più gradevoli e di tecniche di recitazione più adatte al rinnovato medium, si faccia avanti. Ronald Reagan nel 1937 è a Los Angeles, il posto giusto nel momento giusto. L'intuito di Ronald ha ragione. La radio per lui è solo un trampolino di lancio, non un punto di arrivo. Ad accorgersene sono i talent scout della Warner Bros., che dopo un semplice provino gli fanno immediatamente firmare un contratto d'esclusiva della durata di 7 anni. Ma Hollywood non è fatta solo di grandi film, grandi budget e grandi star del calibro di Greta Garbo e Clark Gable. Gli studios cercano di aumentare gli introiti grazie a un'infinità di produzioni minori, i cosiddetti film di serie B, meno pretenziosi ma spesso ben confezionati e destinati a un discreto successo. È qui che Ronald Reagan inaugura il secondo capitolo, il primo davvero importante della sua carriera. Ai produttori non interessava tanto che i film fossero buoni, a loro interessava che fossero pronti di giovedì. La macchina produttiva hollywoodiana non conosce tregua. Ronald ama il suo lavoro e lo fa con passione. L'assolata California lo ha adottato. e ci vorrà molto tempo prima che se lo lasci sfuggire. La cinematografica di Ronald Reagan procede nella norma, senza intoppi, ma anche senza grandi exploit. La sua interpretazione più celebre risale al 1940, quando impersona un giocatore di football americano, George Gipp, detto The Gipper, soprannome che Reagan si porterà dietro per tutta la vita. Rock, someday the team's up against it. Breaks are beating the boys. Reagan sa che le sue interpretazioni al cinema non sono e non saranno mai memorabili. Eppure qualcosa gli suggerisce di non abbandonare Hollywood. Quasi sentisse che quei luoghi saranno forieri di nuove esperienze e nuove opportunità. Del mondo del cinema ormai è pratico. Decide quindi di mettere a frutto l'esperienza acquisita, scegliendo di affiancare alla carriera cinematografica quella di rappresentante sindacale. Nel 1941 viene eletto membro del comitato direttivo della Screen Actors Guild, il sindacato che rappresenta la stragrande maggioranza degli attori a Hollywood. Dopo la guerra, Ronald torna a ricoprire l'incarico temporaneamente abbandonato per via degli impegni militari. A partire dal 1947 e per parecchi anni consecutivi, Reagan passa dal semplice stato di membro della dirigenza a quello di presidente del sindacato degli attori. Un ruolo davvero importante, molto più di quanto lo siano quelli che interpreta nei film. Nella sua carriera Ronald intravede una nuova svolta. Dopo la radio e dopo il cinema è giunto il tempo dell'impegno sociale, è giunto il tempo della politica. Questo è Ronald Reagan che vi parla da Hollywood. Mi conoscete in qualità di attore, ma stasera sono qui in veste di semplice cittadino, preoccupato per l'andamento delle elezioni che si terranno il mese prossimo. Come voi, sono impaziente di vedere cosa ne è stato delle promesse fatte dai repubblicani un paio di anni fa, una volta saliti al Congresso. Le cose non sono andate bene, lo sappiamo, ed è per questo che servono volti nuovi al Congresso degli Stati Uniti, volti democratici. È il 1948. Reagan ha 37 anni ed ha appena scoperto la sua passione per la politica. Nel comunicato radiofonico che abbiamo appena ascoltato, supporta la campagna per le presidenziali del candidato democratico Harry Truman. Già, democratico. Reagan inizialmente sceglie di mettere la sua voce e le sue abilità oratorie, acquisite in anni di lavoro nel mondo dello spettacolo, al servizio dei democratici. Per lui la passione politica in sé, l'attaccamento ai valori e la ferma volontà di perseguire il bene comune contano più dell'appartenenza a un partito. Col passare del tempo, Reagan si avvicina sempre più al Partito Repubblicano. Gli anni del suo primo incarico come presidente della Screen Actors Guild sono quelli dei postumi del Secondo Conflitto Mondiale, gli stessi che vedono esplodere per la prima volta la Guerra Fredda. Reagan dimostra fin da subito di avere una particolare ossessione nei confronti della supposta minaccia comunista. Benché ancora iscritto al Partito Democratico, tra gli anni 50 e l'inizio dei 60 appoggia le candidature di storici leader repubblicani, quali Dwight Eisenhower e Richard Nixon, convinto che la loro fermezza sia in grado di arginare il cosiddetto terrore rosso. La neutralizzazione del blocco comunista, di fatto, sarà sempre uno dei suoi cavalli di battaglia. Che si tratti di Cuba o dell'Unione Sovietica, non fa alcuna differenza. Fidel Castro stava tenendo un discorso di fronte a un'assemblea a La Habana. Era sul punto di dire una frase d'effetto quando dalla folla si alza una voce. Noccioline, popcorn, gelati. Castro continua il suo discorso e di nuovo la voce ripete forte: noccioline, popcorn, gelati. All'ennesima interruzione, Castro sospende il suo discorso e grida: la prossima volta che sento questa voce, state certi che scoprirò chi è e gli darò così tanti calci nel sedere da farlo arrivare fino a Miami. A che tutta la folla si mise a gridare: noccioline, popcorn, gelati. Ironia ed autoironia saranno una costante nella carriera politica di Ronald Reagan. Reagan è un vero uomo di spettacolo, capace di intrattenere, di arringare le folle e far valere i suoi argomenti più di chiunque altro. Nel 1961 l'American Medical Association gli affida il compito di convincere i cittadini che l'introduzione del cosiddetto Medicare, una sorta di assicurazione medica garantita dal governo agli anziani e ai bisognosi, fosse di fatto una porta spalancata sull'inferno del socialismo. Il mio nome è Ronald Reagan. Uno dei metodi classici per imporre il socialismo è attraverso la medicina. I dottori e i cittadini iniziano a perdere la loro autonomia e una bugia tira l'altra. Il governo federale finisce con l'invadere qualunque forma di libertà a cui noi siamo sempre stati abituati in questo paese, finché un giorno ci sveglieremo e ci accorgeremo che abbiamo un regime socialista. La libertà degli americani di decidere è inalienabile, secondo Reagan. Nessun governo, sorretto da nessuna parte politica, può imporre le proprie regole ai cittadini, costringendoli a sottostare a decisioni che non nascono dalla pura volontà dei singoli. Il loro è un anelito di libertà quasi ancestrale, lo stesso che nel 600 spinse alcuni europei ad abbandonare per sempre il vecchio continente e sbarazzarsi delle vecchie usanze oppressive che ancora soffocavano le neonate nazioni. In questo nostro grande paese ha avuto luogo la rivoluzione più importante della storia, l'unica vera rivoluzione. Tutte le altre rivoluzioni che conosciamo hanno semplicemente assistito alla sostituzione di un gruppo di dittatori con un altro. Ma qui, per la prima volta in centinaia di anni di storia dell'umanità, un piccolo gruppo di uomini, i padri fondatori, hanno stabilito con chiarezza l'idea che ognuno di noi possiede il diritto e le abilità per determinare il proprio destino. La libertà di scegliere, di cambiare partito politico, di nascere nell'Illinois e cercare fortuna in California. La libertà che sorregge e sostanzia il sogno americano. C'è forse qualcosa di più importante, di più fondamentale? Nei primi anni 60, Reagan si converte alle teorie economiche del cosiddetto liberalismo classico, un indirizzo che vede nella libera manifestazione dei comportamenti economici individuali la condizione per il migliore funzionamento di un sistema economico. Il compito essenziale dello Stato, secondo Reagan, sta nella salvaguardia di tale condizione. Il governo deve salvaguardare, non imporre. Nel suo discorso a sostegno della candidatura di Barry Goldwater alle presidenziali del 1964, Reagan ribadisce l'importanza della libertà di scegliere. Noi abbiamo un appuntamento con il destino. Dobbiamo preservare il mondo per i nostri figli. E questa è la più grande speranza che ci resta. Dobbiamo fare un passo avanti, uscire da millenni di buio. Dobbiamo tenere a mente che Barry Goldwater ha fede in noi. Crede che noi possediamo la dignità, l'abilità e il diritto di fare le nostre scelte e decidere quale sia il nostro destino. Grazie a tutti. Thank you very much. Questo celebre discorso, noto come A Time for Choosing, è forse intriso di esagerazioni retoriche e affermazioni discutibili. Eppure è l'unico raggio di luce in una campagna elettorale, quella di Barry Goldwater, destinata al fallimento. Goldwater di lì a poco perde le elezioni contro Lyndon Johnson, l'ex vicepresidente del governo Kennedy. Goldwater viene sconfitto, nonostante il discorso di Reagan gli sia valso oltre $1 milione di finanziamenti aggiuntivi per la campagna elettorale. Le parole di A Time for Choosing non riescono a risollevare le sorti di Goldwater, ma certamente rappresentano la prima grossa consacrazione politica per l'ex speaker radiofonico, ex attore, ex sindacalista Ronald Reagan. La sua carriera per l'ennesima volta prende un nuovo corso. Il discorso di A Time for Choosing lascia a bocca aperta i vertici del Partito Repubblicano. Le doti dialettiche di Reagan non possono certo passare inosservate. E nel 1966 la dirigenza repubblicana sceglie di giocare quella che sembra a tutti gli effetti la sua carta vincente. Ronald Reagan viene candidato per l'elezione a governatore dello Stato della California. I repubblicani hanno fatto una mossa azzeccata. Reagan sbaraglia l'avversario e si aggiudica il suo primo mandato. Governor Reagan, I now declare you to be duly installed as governor of the state of California. Al primo mandato ne segue un secondo, Complessivamente, Reagan copre la carica di governatore dal 1967 al 1975. La sua popolarità è altissima, arriva addirittura a sfiorare il 60% dei consensi. La California è troppo poco per lui. Reagan possiede tutte le caratteristiche per puntare alla presidenza. Al termine del suo secondo e ultimo mandato come governatore, Reagan declina l'offerta di restare in California, preferendo mettersi in gioco nelle primarie del Partito Repubblicano. Sfida il presidente in carica, Gerald Ford, nel tentativo di sostituirlo in qualità di candidato repubblicano alla Casa Bianca. Ford ha la meglio su Reagan, ma nel 76 perde le elezioni contro il democratico Jimmy Carter. Reagan aspetta altri 4 anni, sfruttando la pioggia di dissensi che sommerge l'era della presidenza Carter, culminata con la crisi degli ostaggi americani rapiti a Teheran nel novembre del 79. The US Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students. Poco più di un anno dopo, il 20 gennaio del 1981, gli ostaggi vengono rilasciati. Non è un caso che quello stesso giorno a Washington, davanti a una folla gremita e commossa, presti giuramento il nuovo presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan. È la prima volta nella storia americana che un governatore della California assurge alla Casa Bianca. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Il presidente Reagan, forte delle sue convinzioni in materia di liberismo economico e libertà individuali, prende per mano l'America dei primissimi anni Ottanta e la traghetta verso un decennio di benessere e incrollabile fiducia nel futuro. Sono gli anni del boom di MTV, della spocchia degli yuppies, della tirannia della pubblicità. Gli Stati Uniti e con essi il resto del mondo occidentale si godono gli eccessi del più sfrenato dei modelli capitalistici. Il 23 agosto del 1984, alla convention del Partito Repubblicano, il 73enne Reagan è ancora la star indiscussa. È all'apice della sua popolarità e di lì a poco, in novembre, verrà riconfermato alla guida del paese. Niente male per uno che era partito recitando nei B-movies. Allora dimmi, ragazzo del futuro, chi è il presidente degli Stati Uniti nel 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan? L'attore? E il vicepresidente chi è? Jerry Lewis? Suppongo che Marilyn Monroe sia la First Lady. No, Doc, aspetta. E John Wayne è il ministro della guerra. Doc, ti ne ho avuto abbastanza di scherzi per stasera. Buonanotte, ragazzo del futuro. Non solo è arrivato alla Casa Bianca, come ricorda Michael J. Fox nel celeberrimo Ritorno al futuro, ma ha travalicato ogni previsione in fatto di successo in termini presidenziali. Ha risolto la crisi iraniana, ha ridotto le tasse ed è perfino sopravvissuto al fuoco di un attentatore. Alla convention dell'84, una celebre fotografia lo immortala accanto a un attore emergente, tutto muscoli e sorriso, intento a stringergli la mano con fare emozionato. Questo giovane è il nostro secondo protagonista di oggi. Forse nell'istante di quel flash in mezzo alla folla, il nostro ancora non sa che il suo destino sarà indissolubilmente legato, ispirato e guidato da quello del presidente che gli sta accanto. Destini incrociati. Destini incrociati oggi è in America, a metà degli anni Ottanta. Ronald Reagan, ex attore ed ex governatore della California, è il presidente degli Stati Uniti e la star indiscussa della convention repubblicana che si tiene a Dallas il 23 agosto del 1984. In una celebre fotografia è immortalato accanto a un giovane aitante e sorridente, un 37enne il cui destino negli anni a venire prenderà spunto e trarrà sostanza dal percorso umano e lavorativo dell'uomo che gli sta di fronte. I loro destini si incrociano a partire dai loro nomi. Uno è Ronald, l'altro è Arnold, il suo perfetto anagramma. Il suo cognome è lungo e vagamente impronunciabile, come spesso accade ai cognomi che vengono da lontano. Il secondo protagonista di oggi è Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Nel 1984 Arnold Schwarzenegger ha già mosso i suoi primi passi a Hollywood. Dopo una manciata di produzioni minori per il grande schermo e per la TV, Arnold ha partecipato a grosse produzioni tra cui Conan il Barbaro e Terminator. Ma cosa ci fa questo gigantesco ragazzo alla convention del Partito Repubblicano? E come ha approdato all'Olimpo del cinema? Per scoprirlo dobbiamo fare un passo indietro. Torniamo in Europa, e più precisamente in Austria, la terra in cui Arnold è nato. Siamo a Thal, un piccolo villaggio incastonato in mezzo alle Alpi austriache, un migliaio di anime in tutto. Nella maggior parte delle case di Thal, nel 1947, mancano sia il telefono che il frigorifero. È questa la modesta realtà in cui nasce il 30 luglio Arnold Schwarzenegger. È lui stesso a raccontarci della sua precoce voglia di riscatto, di cambiamento. Avevo grandi progetti. Già da ragazzino sognavo di venire in America, diventare un campione di bodybuilding e fare un sacco di soldi. Ma non avevo idea che sarei arrivato così in alto. Arnold si butta nello sport, anzi negli sport. Calcio, atletica leggera, box e giavellotto. Capisce di non essere tagliato in linea di massima per il gioco di squadra. È alla ricerca di qualcosa che consenta di sviluppare in autonomia la sua personalità e le sue doti, attraverso un programma di crescita personale che sia lontano da ogni forma di competizione. Il bodybuilding è la sintesi perfetta di quello che cerca. Il fisico non gli manca, e nemmeno la forza di volontà. Non credo ci fossero persone che mi volessero scoraggiare. Ma di certo non c'era nessuno che credesse così tanto in me. Erano mie visioni, mie idee. I miei genitori di certo non le condividevano. Mi dicevano, perché non giochi a calcio? Ma a me piaceva sollevare pesi. Io volevo essere il più giovane campione al mondo di sollevamento pesi. Nonostante la strenua opposizione della famiglia, Arnold non cede. Ha un unico obiettivo, vincere al più presto il titolo di Mister Universo. Improvvisa una palestra nel garage di casa dove si chiude a ripetere esercizi estenuanti per ore e ore di seguito, 7 giorni su 7. La fatica è tangibile, ma lo è anche la sua motivazione. Sono sempre stato affamato. Ho sempre avuto questo desiderio dentro, il desiderio di diventare qualcuno. Volevo farcela, essere il migliore. Credo che derivi dal fatto di essere cresciuto in un piccolo villaggio. Volevo andarmene da lì, essere parte di qualcosa di grande. Per me l'America era il simbolo di tutto questo. Il suo è un sogno di grandezza, di emancipazione, di libertà. In due parole, è il sogno americano. Come è successo a Ronald Reagan da Tampico, Illinois, così accade ad Arnold Schwarzenegger da Thal, nella sperduta periferia austriaca. Sembra che tutte le strade portino in California. Forte dei successi ottenuti in Europa nell'ambito del culturismo, Schwarzenegger approda in America nel 1968 con soli $20 in tasca e senza sapere una parola d'inglese. Per cominciare, lavora a Santa Monica come carpentiere nell'attesa di sfidare il suo idolo, Reg Park, colui che si era impresso nell'immaginario di Arnold interpretando una mastodontica divinità in un film di Mario Bava dei primi anni 60, Ercole al centro della Terra. Schwarzenegger si aggiudica tutti i titoli possibili. Mister Mondo, Mister Universo e il prestigioso Mister Olimpia, che nel 1970 gli spalanca le porte del suo primo set, quello del film Ercole a New York, in cui recita, si fa per dire, sotto lo pseudonimo di Arnold Strong. It may not be entirely without merit, But you wouldn't like it down there. Let me be the judge of that. I am tired of the same old faces, the same old things. Tired or not, you're staying here. La barriera linguistica, come avete sentito, è ancora notevole. E anche per via di quel marcatissimo accento tedesco che viene scartato ai provini della serie L'incredibile Hulk. Al suo posto reciterà l'amico e collega Lou Ferrigno. L'occasione giusta arriverà, basta solo avere la tenacia e la costanza necessarie. Arnold è motivato. Vuole entrare nel mondo dello spettacolo. Certo, anche le competizioni di bodybuilding sono una forma di spettacolo, di intrattenimento. Sono la valvola di sfogo del narcisismo latente di tanti giovani affamati di successo, spesso più inclini a lavorare sul proprio corpo che non sulla propria testa. Ma Arnold è diverso. La sua ambizione non può e non vuole fermarsi a quelle che oramai ai suoi occhi sembrano solo delle ridicole giostre di corpi in bella mostra. Un giorno stavo su uno di quei palcoscenici e ho cominciato a chiedermi cosa ci facessi lì, a posare in mezzo a tutti quei corpi unti, nel tentativo di passare alla storia in qualità di uomo più muscoloso del mondo. Perché? Il primo vero ruolo importante della sua carriera risale al 1976, quando recita in Il gigante della strada, accanto ad attori del calibro di Jeff Bridges e Sally Field. L'interpretazione gli vale addirittura un Golden Globe come migliore attore debuttante. Il ruolo, tuttavia, è sempre quello di un muscolosissimo ragazzo avvezzo alle palestre. Difficile uscire dalla parte se si ha un corpo come quello di Arnold Schwarzenegger. A lui però non importa il giudizio dei critici. I don't care. Non mi interessa. I never have cared. Non mi è mai interessato che la gente pensasse se sono serio o meno. Per me la cosa importante è fare un lavoro che faccia divertire le persone, che sbanchi i botteghini, che garantisca profitti agli studios e che faccia divertire anche me, mentre lo faccio. Cosa importa se si tratta di un lavoro serio o meno? Io non mi prendo troppo seriamente, sono capace di fare un passo indietro e ridere di me stesso. E mi piaccio così come sono. Non c'è nulla di scandaloso, dunque, nella decisione di Schwarzenegger di prendere parte negli anni seguenti a pellicole di dubbia qualità, ma di comprovato successo. Prima diventerà Conan il Barbaro, quindi, nel 1984, Terminator. È incredibile! Come ha potuto rialzarsi quell'uomo dopo? Non è un uomo! È una macchina. Un Terminator. Modello sistemi cibernetici 101. Lo strepitoso successo nei panni del cyborg, ideato e diretto da James Cameron, spalanca definitivamente a Schwarzenegger le porte di Hollywood. In 20 anni di carriera sul grande schermo, spazierà dalla fantascienza alla commedia, riuscendo nell'impresa di conferire a tutte le sue interpretazioni, anche le più ingessate, quel pizzico di distacco autoironico necessario per sopravvivere nella giungla dei blockbuster hollywoodiani. Alla convention repubblicana dell'agosto dell'84, Schwarzenegger passa ancora inosservato. Terminator debutterà in ottobre, consacrandolo per sempre sull'altare del culto cinematografico. Arnold in quei momenti non immagina la portata del successo planetario che lo investirà a breve e non immagina nemmeno che quel luogo, quel raduno di folla e quel partito gli saranno ben più familiari di quanto crede. L'uomo a cui stringe calorosamente la mano il presidente Reagan sarà il suo totem e la sua costante fonte di ispirazione. You can tell Gail if she calls that I'm famous now for all these rock and roll songs. And even if that's a lie, she should have given me a try when we were kids on the field of the first day of school. I would have been her fool. Destini incrociati. A Destini incrociati, la vita di un ex culturista venuto dalle Alpi, Arnold Schwarzenegger, si è tramutata in una folgorante carriera sul grande schermo. Il suo sogno americano si è avverato a Hollywood, in California, la stessa terra da cui prese le mosse anche la carriera di Ronald Reagan, nato attore e diventato governatore, quindi presidente degli Stati Uniti. I loro destini si incrociano a Dallas, Texas, luogo scelto per la convention repubblicana dell'estate del 1984. Una foto li immortala insieme, sorridenti. 2 mesi più tardi, Arnold e Ronald toccheranno entrambi le vette del successo personale. Schwarzenegger sarà Terminator sotto la guida di James Cameron. Reagan polverizzerà l'avversario democratico Walter Mondale, riconfermandosi per un secondo mandato alla Casa Bianca. La rielezione di Ronald Reagan è un vero e proprio trionfo. Uno shock per i democratici convinti di continuare a far presa, perlomeno sull'elettorato progressista. Ma i vertici del partito si sbagliano. Non solo il loro candidato viene sconfitto ampiamente in tutti gli stati tranne uno, ma un sondaggio rivela che il Partito Democratico ha ottenuto la maggioranza dei voti solo tra i poveri e gli emarginati, ovvero tra le fasce più basse della società. Tutti gli altri gruppi sociali, compresi gli studenti, l'industria e il ceto medio, si sono schierati con Reagan. Le sue tattiche liberiste hanno portato un innegabile benessere a molti americani. E per quel che concerne la politica estera, Reagan è sul punto di contribuire a uno dei cambiamenti più importanti della storia contemporanea. A partire dal 1985, Reagan promuove una serie di incontri con il presidente russo Mikhail Gorbachev, col quale stringe un'amicizia personale. I due presidenti intendono porre fine alla contrapposizione tra i due blocchi che rappresentano, quello occidentale e quello filo-sovietico. Sono ormai 50 anni che la Guerra Fredda prosegue a fasi alterne, minando gli equilibri del mondo intero. Un bel cambiamento di rotta per il presidente degli Stati Uniti. Fino a quel momento, infatti, e per l'intero corso della sua carriera politica, Reagan non ha mai mancato di esprimere preoccupazione nei confronti della minaccia comunista. Signore e signori, il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan. Grazie, grazie. Noi dovremmo pregare per la salvezza delle anime di coloro che vivono nelle tenebre del totalitarismo. Pregare che un giorno scoprano la gioia di conoscere Dio. Ma fino a quel giorno ricordiamoci sempre che finché predicano la supremazia dello Stato e dichiarano la sua onnipotenza al di sopra delle libertà dei singoli individui, per noi rappresentano il fulcro di tutto il male dell'umanità. They are the focus of evil in the modern world. I veri attori della storia moderna, i veri uomini di spettacolo che calcano da tempo le assi del palcoscenico globale, riconoscono il momento in cui serve un cambio di rotta. Il prestigio americano non può più conciliarsi con le politiche di riarmo e le cieche crociate anticomuniste. L'8 dicembre del 1987 a Washington, Reagan e Gorbachev firmano una storica intesa per la riduzione degli armamenti nucleari. Due giorni prima, a Berlino Est, Reagan ha pronunciato parole storiche di fronte alla porta di Brandeburgo. Segretario generale Gorbachev, se vuole la pace, se vuole la prosperità per l'Unione Sovietica e per i paesi dell'Est, se vuole la libertà, venga qui, a questa porta. Signor Gorbachev, apra questa porta. Signor Gorbachev, abbatta questo muro. Due anni più tardi avviene il crollo del muro di Berlino. È la fine di un'epoca. Arnold Schwarzenegger, intanto, prosegue la sua folgorante carriera nel mondo del cinema. Ormai si sente americano a tutti gli effetti. L'incontro con il presidente Reagan ha risvegliato in lui l'interesse per la politica, parte di quel profondo desiderio di maturazione interiore che lo ha sempre distinto dagli ex colleghi culturisti. Il presidente Reagan raccontava spesso di una lettera che aveva ricevuto da un cittadino, che diceva: tu puoi andare a vivere in Turchia, ma non diventerai turco. Puoi andare a vivere in Giappone, ma non diventerai giapponese. E continuava con simili esempi di diverse nazioni. E poi diceva: ma ogni uomo, da ogni angolo sperduto della terra, può venire in America e diventare americano. Il brandello di sogno americano che Schwarzenegger si è ritagliato sui grandi schermi hollywoodiani inizia a stargli stretto. Per lui essere americano significa molto più che sbancare i botteghini coi film d'azione. E così mi sono detto che ero stanco di fare sempre le stesse cose. Saltare dalle auto in corsa alle 3 del mattino, andare da un personaggio e dirgli «sono tornato», prima di farlo saltare in aria con un colpo di mitragliatrice. Tutto questo è fantastico, ma dopo un po' diventa stantio. Per Arnold essere americano significa di più. Vuole dire partecipare attivamente alla costruzione di quello che ormai è diventato il suo paese. Nel 2003, dopo oltre 20 anni di onorato servizio nello stardom hollywoodiano, appena terminate le riprese del terzo capitolo della saga di Terminator, Schwarzenegger si candida come governatore repubblicano della California, sulle orme dell'ex presidente Ronald Reagan. Il destino sembra già scritto. Schwarzenegger vince le elezioni. Il nuovo governatore della California si ispira agli stessi principi che avevano illuminato gli albori della carriera di Reagan. La passione politica e la ferma volontà di perseguire il bene comune contano più dell'appartenenza a un partito. Arnold è fiero di essere repubblicano, ma non teme la dialettica politica, anzi, la incoraggia. Dopotutto è sposato con una Kennedy. Non potrei mai essere così presuntuoso da spendere anche solo un secondo dando consigli alla famiglia Kennedy per quel che riguarda la politica. Sono io quello che sta imparando. Adoro imparare, non solo dai repubblicani ma anche dai democratici, perché ti accorgi che entrambi i partiti governano il paese, gli stati, le città e così via. Devi concentrarti su ciò che davvero può avere un impatto positivo sulla gente e usare entrambi i metodi, non solo uno dei due. Non ci deve essere un'esclusiva. Qualche conta è fare bene il tuo lavoro. La folgorante carriera di Schwarzenegger, prima nel mondo dello spettacolo e poi nel circo della politica, passata immancabilmente dallo stato della California, non può non ricordare il percorso di Ronald Reagan. Inevitabili i paragoni tra i due e inevitabili le domande su una possibile candidatura di Schwarzenegger alle presidenziali. Un giorno. Certo, perché no? È inevitabile puntare in alto per chi ha la mia stessa indole, sempre proiettata verso il massimo. Ma non è in cima ai miei pensieri. Anzi, a dire il vero, non ci penso mai, perché ho fatto tante promesse in California e ho intenzione di mantenerle tutte. Arnold per ora non sembra troppo preoccupato di un eventuale futuro alla Casa Bianca. Ipotesi che oltretutto prevederebbe la modifica di un emendamento della Costituzione che vieta a chi non è nato sul suolo statunitense di concorrere alla carica presidenziale. A dire il vero, esiste già un comitato di sostenitori della sua ipotetica candidatura. Può darsi che nel 2012, insieme alla fine del mondo, vedremo Terminator sedersi nello studio ovale. I'm looking outside of my window. The view that I see is a child and mama. And the child is begging for money. Tell me why the woman is blind. Is she so broke? The kid's stealing crime in such a beautiful city. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.